È una non stop, siamo a aggiornare il sito, a completare l'edizione digitale del giornale, insomma c'è molto da fare. Che ci dai il titolo di domattina? Mi sono allontanato un secondo, ma è una cosa, l'ho visto un attimo fa, e sì, insomma, boom Movimento 5 Stelle, come titoliamo sul sito, sì. Crollo del PD e Lega che sorpassa Forza Italia, questi sono i tre claim principali, sostanzialmente l'affermazione del Movimento 5 Stelle che raccoglie un voto su tre. E quindi si avvia a attestarsi circa 10 milioni di voti, milione più, milione meno mi verrebbe da dire, ma il punto è che il 33% di consenso all'incirca, secondo le ultime proiezioni, danno il Movimento 5 Stelle il primo partito, ma soprattutto pongono in una carambola di possibili soluzioni tutti i contendenti sostanzialmente fuori dall'alveo politico in cui si sono collocati nella campagna elettorale, perché centrodestra con una Lega che sta staccando Forza Italia di almeno 2 punti secondo le ultime proiezioni, certo è una Lega che non è più Nord, ma da quando non è più Nord conquista consensi un po' dappertutto, anche nel resto d'Italia, quindi sarà interessante capire se quei consensi che acquista in più è perché si presenta come Lega, non più Lega Nord, e si presenta anche al centro o al sud, questo sarà un dato da analizzare alla fine di tutti gli spogli, ma chiaramente il centrodestra non raggiunge quel 40% che sperava di ottenere per poter governare da solo, per cui il governo del centrodestra non c'è, uno stallo totale alla messicana che dovrebbe che potrebbe confermare Gentiloni, e nemmeno, perché il PD che scende addirittura, vedevo delle ultime proiezioni, sotto il 20%, chiaramente non può dare una linea, insomma, a tutti gli altri partiti, per quanto possa essere in qualche modo valutato positivamente l'operato di Gentiloni, ma al di là di tutto questo, insomma, qui parte una nuova legislatura e qui, insomma, è un gioco delle parti che è difficile da comporre. Verrebbe in mente come possibile soluzione di governo una formazione 5 Stelle, Lega Nord, anzi Lega, chiedo scusa, Lega e basta, ma sarebbe fantascientifico visto i fendenti che si sono tirati nelle ultime settimane. Ci ho detto mai dire mai, di certo che se fosse confermato questo risultato, chiedo scusa, sicuramente, come dicevo, i partiti dovrebbero trovare la formula per creare un governo andando oltre quanto hanno promesso ai propri elettori, e questo sarebbe molto molto divertente politicamente parlando. Ecco, Marco, io ti volevo fare un paio di domande. La prima, come dire, insomma, il Sole 24 Ore ci aiuta anche a leggere le notizie di economia, cosa ci dobbiamo aspettare domattina dalle borse? E la seconda, anche di conseguenza, in un certo senso, la reazione di Bruxelles. Ma allora, partiamo dalle borse che guardano l'Italia sicuramente con preoccupazione, ma non è l'elemento di maggiore preoccupazione al momento. L'elemento di maggiore preoccupazione al momento, e lo abbiamo visto con pesanti cali di oltre 2 punti percentuali venerdì scorso, è la guerra commerciale che si profila all'orizzonte tra Stati Uniti ed Europa, diciamo tra Stati Uniti e il resto del mondo, per meglio dire, dopo le minacce sui frigoriferi, ora quando si parla di acciaio e industria pesante, con i dazi all'ingresso negli Stati Uniti, vuol dire che è finita un'era, è finita non solo a parole ma anche nei fatti, quella della globalizzazione, quella del WTO, quello del commercio internazionale, che ha sostanziato l'economia di tanti paesi, cioè che ha dato sostanza, reddito e crescita del PIL di tantissimi paesi, perché gli scambi commerciali hanno rappresentato una risorsa importante per l'economia mondiale, e dunque le borse temono una guerra commerciale tra Stati Uniti e Europa in particolare, ma insomma con tutto il mondo, quindi questa è la maggiore preoccupazione. Sicuramente il tassello italiano è un elemento di criticità non irrilevante. Sarà interessante vedere la borsa, ma per fortuna non ci saranno delle aste la prossima settimana sui mercati obbligazionari, quelli dei BTP, dei bot per intenderci, perché quello sarebbe stato un test molto duro dell'opinione che hanno i mercati finanziari dell'Italia. Sappiamo quanto l'Italia sia indebitata per far funzionare la macchina dello Stato. Sostanzialmente l'Italia chiede in prestito denaro ai mercati finanziari emettendo titoli di Stato, titoli che vengono poco comprati, hanno dei rendimenti molto alti, e questi rendimenti, quando sono troppo alti, portano a un esborso in crescita per quanto riguarda gli interessi sul debito. È un tema poco sottolineato, ma che riguarda le tasche di noi tutti, perché se oggi si pagano ogni anno 51 miliardi di euro per gli interessi sul debito, e sono tanti soldi, solo pochi anni fa, prima del QE, se ne pagavano 80, e quando abbiamo titolato quel fate presto che ha fatto storcere il naso e continua a far storcere il naso a molti, ebbene lì si rischiava di superare i 100 miliardi di euro, e quindi con un aumento nel giro di pochi mesi di 30, 40, 50 miliardi in prospettiva da tirar fuori, era il fallimento conclamato di fatto. E dunque diciamo che le borse sicuramente reagiranno non bene, non solo le azioni, ma anche in assenza di altri titoli obbligazionari che sono quotati sui mercati finanziari e che registreranno abbastanza probabilmente un rialzo dello spread. Staremo un po' a vedere un po' come andranno a finire le cose. Chiaramente Bruxelles non può che rispettare il risultato di un paese membro dell'Unione Europea. Certo, le forze che hanno trovato maggiore affermazione in questa consultazione, cioè il Movimento 5 Stelle e Lega, non hanno professato parole di grande stima per l'Unione Europea, che ha fatto molto per rovinare la propria immagine sotto tanti aspetti. Ciò detto, credo che poi, quando si salga sulle scalinate dei palazzi di governo, una certa realpolitik porti a a trovare delle formule giuste per salvare capre cavoli. Gli italiani sono bravi ad abbattere il governante in carica e cercare uno nuovo. Sono molto meno bravi a premiare, e parlo in assoluto, non certo in questa circostanza elettorale, ma non sono straordinariamente bravi a premiare chi ha lavorato bene, anche perché chi lavora bene di solito lo fa aumentando la lotta all'evasione fiscale, e siamo veramente sicuri che tutti vogliamo una lotta all'evasione fiscale, a tenere i servizi alti e quindi anche le tasse non particolarmente basse. Insomma, abbiamo tanta voglia di cambiare, e quel po' che si fa di buono ogni tanto non sempre lo si riconosce, forse un po' nella nostra natura di esseri umani, ma noi italiani siamo fatti forse ancor più in maniera connotata con questa caratteristica.